Buonasera a tutti e buonasera ai radioascoltatori di Radio Alma 101.9. Buonasera Anna Maria, aspetta, non parlare, che ti metto il microfono, eccoti. Buonasera Rosanna. Come va? Bene, direi, nonostante bene. Questo tempo grigetto, però vabbè, ci siamo abituati. Allora, ci siamo lasciate con Anna Maria e... Buonasera a tutti, sono Fiorella, ben ritrovati. A me il tempo grigetto piace, cominciamo bene. Non ci credo. Sì, mi piace, sono nata in Capricorno, domani mio compleanno, piena bufera di pioggia. E dunque adoro la pioggia, grazie, mi hanno fatto un bel regalo. Fantastico, penso che sei l'unica a cui piace la pioggia. Comunque tanti auguri Fiorella. Grazie. Intanto anticipiamo, poi domani festeggiamo. Sì. Allora, come pensi di festeggiare il tuo compleanno? No, io mi sono fatta alcune proposizioni per il prossimo, per quest'anno, questo che è già iniziato e che inizio con il mio compleanno. Prima cosa, allora, tutti quanti dicono meglio un uovo oggi che la gallina domani, no? Ecco, prima stavamo dicendo... Mangiamo tutte e due. Visto che abbiamo fame, io direi facciamoci l'uovo e la gallina. No, non lo so quello che festeggerò, perché ho un figlio che è sotto esame, dunque mi ha detto mamma non si esce da sera. Perché sto studiando, l'altro che mi fa la sorpresa di venire da Maastricht, dunque mi ha detto che mi fai trovare il mio menù preferito. Ah, lui ha chiesto a te il suo menù preferito. Fantastico. Poi anche il mio, tortellini, se li trovo, quelli fini, col brodo, anzi a proposito di mangiare. L'altra volta ci siamo lasciati che c'era un signore, un panettiere che faceva il torrone che ci ha telefonato. Vero, vero, che diceva di essere a Scarbake. Non siamo riusciti a metterlo in diretta perché c'era un piccolo problema tecnico. Quindi noi speriamo che magari ci richiama stasera che ci fa sapere dov'è, perché magari questi torroni ce li ha ancora. Sì, ma anche se non ha torroni, con la fame che ci ritroviamo, possiamo andare. Cioè, a noi ci piace tutto, cioè possiamo fargli una bella visita, no? Vero? Fiorella, tu vorresti andare quindi da questo panettiere, mi stai dicendo? Ma sì, perché tra l'altro è stato molto gentile. Prima cosa ad ascoltarci. Già solamente per questo, uno, ecco. Certo. Poi il torrone, abbiamo visto che lui è stato attento a ciò che dicevamo, giusto? Assolutamente. E noi saremo molto attenti a ciò che lui cucina, ecco. Certo, è quello che ha da proporci, perché no? Sì, perché no? Ampliamo la Allora, intanto, comunque, approfittiamo anche per fare gli auguri di buon anno. Io non l'ho ancora detto e questa è la prima trasmissione dei colori dell'anima di quest'anno. Dovevamo ricominciare il 4, però ci siamo presi un altro lunedì di vacanza e, insomma, eravamo appena tornati avevamo appena ripreso le attività lavorative anche per chi stava qui e quindi abbiamo voluto... E dovevamo riprenderci dalle vacanze natalizie. Ci dovevamo riprendere dalle vacanze, che notoriamente sono stressanti. Già in volo, visto che era la Befana. Sarebbe stata la Befana. No, stavamo facendo il control technique alle scope, perché il 4... certo. Ma senti Fiorella, la Befana, non mi ricordo, viene a casa tua o no? Ma parte da lì, quella è la base però. Ah, parte da lì la Befana. C'ha la pista sul terrazzo di Fiorella. Ma sai quanti li vedo? Sì, poi era una bella serata luminosa, non ho dovuto accendere niente, la pista era libera, c'è stato un via vai e poi sono andata anch'io, l'ho accompagnata naturalmente. Va bene. Allora, non ho ancora trovato un brano musicale, avete qualche idea per cominciare questa trasmissione? Uno di Debbie Bowie, visto che poverino è morto, lo ricordiamo se ce l'hai. Beh, visto che c'è questo evento, che insomma mi sembra abbastanza, non voglio dire la parola importante. E che cosa di David Bowie? Non Let's Dance perché l'ho messo prima, un altro? Non so. Fai tu. Faccio ti io, lasciamo, va bene, ti lasciamo la libertà di scelta. Va bene, quindi, come abbiamo visto, non siamo affatto preparate sulle musiche di David Bowie. Però, vabbè, saremo preparate per altre Lo cose. Devo cercare un attimo, quindi, se voi intanto intrattenete i nostri radioascoltatori... Un balletto Catiglione, va benissimo. E va bene, noi adesso ci facciamo una chiacchierata, io e Fiorella, ci raccontiamo qualcosa delle nostre vacanze, di come sono andate. Ma di che cosa... Allora, una cosa che dobbiamo dire, se siamo per esempio, se non solamente il panettiere di Scarbeck ci ascolta, ma qualcun altro dall'Italia ci ascolta, siccome io ho avuto la fortuna di passare le mie vacanze qui a Bruxelles, no? E sono state bellissime, io devo dire che sono stata orgogliosissima di vivere in una città come Bruxelles, che in un momento difficile di terrorismo e tutti quanti, dove tutto il mondo ci avrebbe voluto vedere dentro casa, chiusi, tristi, a lacrimare, invece eravamo, almeno io, per strada a Bruxelles tutte le sere, con una temperatura... una, veramente, è vero, non è stato affatto freddo. Di 16 gradi alle 6 di sera, le persone... contente, e devo dire che l'illuminazione è stata bellissima. Rispetto agli altri anni hanno messo molte più bancarelle, molto più a mangiare, ragazzi, c'è una certa ora che uno ha fame, però anche molto più oggettistica, e l'illuminazione è stupenda. Molte più persone per strada, con più voglia di divertirsi. Beh, probabilmente le persone che sono uscite proprio perché avevano voglia, sì, di uscire, non perché si deve ma fare. Ma no, perché stavamo bene. Perché... Allora, una cosa molto buffa era vedere queste persone delle, come si chiamano, delle emittenti straniere, no? Che guardavano un pochettino, che passavano e si divertivano. Non lo so, forse pensavano di trovarci tutti quanti atterriti con i caschetti. Con secondo i me sì, altini. perché anch'io ho ricevuto messaggi, sì, dall'Italia, mio Dio, cosa succede, che cosa fai, stai chiusa in casa. No, noi abbiamo vissuto normalmente, abbiamo fatto le cose che facciamo sempre. Forse anche meglio di sempre. Molto meglio. Perché comunque sì, ci siamo goduti la città con quello che offriva. Sì. Bellissimo, la città bellissima. Tu c'eri, Rosanna? E che ti sei persa? Allora, questo era un omaggio a David Bowie, che, come avrete sentito tutti, è morto oggi, questa notte, 11 di gennaio 2016. All'età di 69 anni, dopo aver prodotto un ultimo album, e insomma ce ne dispiace. Mi ha colpito molto questa sera, ascoltando le notizie su Rai 1, che persino i prelati si sono hanno espresso, diciamo, tristezza per la morte. Il vescovo di Canterbury e Monsignor Ravasi in Italia, cioè mi sembra strano che questa figura, che tutto avrei detto fuorché essere vicina diciamo all'ambiente così dei prelati, che potesse suscitare questo tipo di apprezzamento, ma sicuramente era una persona che aveva un suo spessore, quindi penso che vada apprezzato per questo e per la sua originalità, per tutte le canzoni che ci ha fatto ascoltare in questi anni. Dunque, leggevo che lui sono alcuni anni che si è ritirato dalle scene, soprattutto per fare il papà. Dunque era lui che andava a prendere la bambina a scuola, l'ultima piccolina, andava alle recite scolastiche, e normalmente si rifugiava in un caffè italiano di New York, dove le persone, cioè, anche se lo conoscevano, lo lasciavano tranquillo. Dunque penso che gli ultimi anni li abbia, pur essendo una persona bravissima dal punto di vista vocale, sonoro, eccetera, ma abbia preferito l'aspetto papà, aspetto umano, a un aspetto umano. Forse anche per quello arriva l'apprezzamento di qualcuno che, non so, forse abbia contribuito a dare un'altra immagine di se stessa, ecco. Poi è uscito il suo ultimo disco il giorno del suo compleanno. Un altro Capricorno, forse anche a lui piaceva la pioggia, chi si sa? Non chi si sa. Sa. Non glielo chiederemo sicuramente mai. Non lo so, poi lassù non piove, pensiamo, no? Giusto? Beh, auguriamoci di no. Non lo so, a questo punto bella non domanda. Lo so. Bella domanda, eh? Non lo so. Pioverà in paradiso? Non si sente? Allora, questa sera dovete sapere, cari radioascoltatori, forse ci vedete, ci ascoltate un po' distratti, perché abbiamo un problema di microfoni, cioè non riusciamo a passare attraverso i microfoni. Quindi stiamo gesticolando per cercare di, sì, farci capire. Dovete sapere che tra me e Anna Maria e Fiorella c'è un vetro molto spesso, e quindi è difficile ascoltarci, sentirci. E va bene, insomma, anche se non ci sentiamo bene, proviamo lo stesso a farci questa chiacchierata, no? Quindi adesso noi, io e Fiorella, ci applichiamo, alziamo la voce. Benissimo. E cerchiamo un pochettino di farci capire. Allora, di cosa parliamo? Dell'anno che è iniziato, dell'anno che è stato. Io ve l'ho detto, i buoni propositi, uovo e gallina, tutte e due. Tutte e due e non se ne parla più. Non facciamo più distinzioni, non siamo razzisti, vogliamo entrambe. Tutte e due. La vita è corta e bella. La vita è corta e bella. Ecco, io inizierei proprio così l'anno. La vita è corta e bella. Siamo fortunati. Sì. Siamo nati nella parte giusta del mondo. Non ci lamentiamo. Sì, infatti. Sì. A volte, sai, su questa cosa che tu dicevi, non so se ti ricordi, tempo fa avevamo fatto quella trasmissione sui rifugiati, no? E si dice perché io sì, cioè lo status di rifugiato, che è una condizione purtroppo che tocca un buon numero di persone, ma non soltanto di rifugiato, perché si può essere anche delle difficoltà. Però vediamo quello lì di rifugiato perché è quello più vicino a noi, quello di alle porte. Anzi, l'ho visto ancora. Diciamo che quello che ora vediamo vicino a noi. Ma perché fino a qualche anno fa non ci siamo mai neanche posti il problema. Oggi lo vediamo. Aspetta, lo vediamo. Oggi non ci siamo posti il problema e lì ti posso dire che l'avevamo ancora di più alle porte, visto che era in ex Jugoslavia ed era al di là di quella famosissima cortina di ferro che da noi è Trieste o vicina. Dunque, vero. Lo avevamo molto di più alle porte. Ma non lo so, forse perché era ben gestito, perché non c'è stato quel flusso migratorio da noi, dunque non ci sono stati tutti questi, come dire, tutto ciò che è venuto insieme a questo flusso migratorio non ce ne siamo voluti occupare, perché il flusso esisteva. E io purtroppo quella condizione, non di rifugiato, ma quella situazione l'ho vissuta, perché vi ricordate, vi dicevo, dentro il campo profughi mi sono occupata, e mi sono sempre detta, perché loro sì e io no? Ma è un caso che io fossi nato a 150 chilometri, cioè se io fossi nata a Trieste ci sarebbero stati solamente pochissimi chilometri per farmi trovare in quella situazione, che è una situazione che non è che tu dici, sai, forse ci diventerò, è una situazione che scaturisce in niente, in un nulla, esatto. In qualche minuto di affacciarsi dalla finestra. Io mi ricordo sempre quando lo chiedevo alle signore, dico, noi sapevamo che c'era la guerra, però avevamo sempre un cambio pronto, un pigiama, i documenti, e poi dico, com'è che siete scappati? Qualcuno vi ha detto, no, ci siamo affacciati alla finestra, abbiamo sentito dei rumori più intensi del solito, abbiamo preso i bambini e siamo scappati. Ecco che in un clic si diventa rifugiati. Tra l'altro in un attimo. In un attimo. Tra l'altro ci possiamo anche dire la differenza fra profughi e rifugiati, perché qui, sai, anche noi in Italia abbiamo avuto i profughi, giusto? Il profugo è colui che si sposta, anche essendo, io per esempio ho avuto i miei nonni profughi, perché abitavano a Monte Cassino, a Cassino, e dunque sono andati verso la Calabria perché sono stati i cosiddetti sfollati. Ecco, sfollati è la folla che si muove, no? Ecco, l'esodo, detto anche profugo, il rifugiato invece è colui che si rifugia sotto un altro cielo, giusto? Che giusto. Poi il cielo può essere anche lo stesso, non ci possono essere anche, ci possono anche non essere fusi orari, però in un attimo ci si diventa così. Ecco, dunque, che cos'è che noi, perché noi abbiamo invece ha avuto un destino migliore? Non lo so. Non lo sapremo mai. Di più? No. Non lo so. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Però io penso che dovremmo essere consapevoli di ciò che noi invece abbiamo avuto. Dunque, e non dire solamente, ah, meno male, a me non mi è toccato. No, facciamo in modo che non tocchi a nessuno. Cioè, noi non siamo meglio di altri, ma forse siamo migliori, o forse abbiamo di più i mezzi o i modi per poter cambiare la situazione ad altre persone, giusto? Beh, possiamo sicuramente fare qualcosa. Ecco, io più che il destino, noi non siamo stati, forse siamo coloro che sono destinati, fra virgolette, a cambiare la situazione in meglio di coloro che stanno peggio, o no? Cioè, riconoscendo la nostra situazione migliore, possiamo far sì che è grande dire una cosa del genere, perché ognuno di noi può fare qualche cosina. Sì, miracoli non ne possiamo fare. No. Però già essere consapevoli che certe cose non debbano più esistere è già un passo avanti. Certo, però ne siamo diventati consapevoli perché i rifugiati sono venuti a casa nostra. Ecco, se non fossero venuti a casa nostra, forse... Non ci saremmo posti il problema. No, non ce lo saremmo posti, come non ci poniamo mai il problema quando scoppia una... Allora, se scoppia una bomba a Parigi, tutti quanti a fare manifestazione, scoppia la stessa cosa. Ci sono stati 140 studenti massacrati in Kenya. Hai ragione. Nessuno si è mosso, però sta laggiù. Dunque, il nostro quotidiano non viene intaccato. Esattamente. Beh, in questo caso, però, io vorrei dire una cosa, che è anche una questione di comunicazione. Cioè, qualche cosa che succede in Europa si sa immediatamente, perché le vie di comunicazione sono rapidissime. In altri paesi, purtroppo, la comunicazione spesso viene proprio evitata e quindi il resto del mondo è meno coinvolto perché non si sa. Perché si sa poco, troppo poco, e perché le persone che devono parlare, che vorrebbero parlare, non possono parlare. E quindi proprio un io credo che sia anche soltanto una questione di comunicazione, non perché è successo laggiù sì. E non ci importa nulla, è perché qui la notizia è arrivata diversamente. Ho capito, Parigi però... è a due passi e, sì, e siamo però, stati come dice Fiorella, hai ragione, ma come dice Fiorella l'esempio che lei fa di questa uccisione di quanti erano? 160? 148 se non sbaglio. 148 in Kenya, comunque si è saputo, però hanno avuto su di noi meno presa, perché anche quando l'abbiamo saputo, quando la notizia è arrivata, ci non è passata fatto un niente. Po' così non, non è arrivata con lo stesso peso. Cioè non ci è stata trasmessa con lo stesso peso, non che fosse diversa, sì, certo. Non l'abbiamo percepita correttamente. Certo. Sì, però io lì che ti... Allora, ok, però io dico che oggigiorno, allora, adesso oggigiorno con tutti i sistemi di comunicazione abbiamo quasi la cosa in immediata, basta un telefonino che tutti quanti, c'è come un tantam che si leva. Allora, noi l'abbiamo ricevuta forse in maniera più ovattata, con un po' di ritardo, però noi non abbiamo reagito nella stessa maniera. Non c'è stato, cioè, che cos'è che ha impedito, anche a qualche giorno di distanza, di non fare una manifestazione come quella di Parigi? Quando c'è stato l'anno scorso Charlie Hebdo, c'è stata una manifestazione per strada, no? Sì, è vero. Benissimo. Allora, che cos'è che ha impedito in Europa di non fare una manifestazione in onore di quegli studenti trucidati? Cioè, ma ci rendiamo conto, 150 studenti, cioè un'intelligenza è il futuro di una nazione. È il futuro del paese. È il futuro di una nazione che tra l'altro non è che sia fra le prime, fra le top, tu dici ok, non ce ne sono 150, ce ne saranno altre. Quei 140 persone, 150, sono per esempio, molto probabilmente saranno stati studenti, figli di... povera gente che avrà fatto di tutto per mandarli a studiare, per vedere i loro figli in una condizione migliore di quello che erano loro, giusto? Giusto. Dunque, diciamo che lì allora il non è stata soltanto la perdita familiare, ma è stata una perdita molto importante dal punto di vista nazionale. Certo. Però nessuno si è mosso, cioè nessuno ha detto guarda il Kenya o qualsiasi altra nazione ha perso 150 delle sue giovani vite. Se noi comuni mortali non abbiamo fatto niente, ma coloro che comandano, perché non sono scesi in piazza? Cioè non è che gli dovevano... Che cosa serve? Per scendere in piazza loro basta che ti prendi un aereo privato, scendiamo tutti quanti in piazza e andiamo, giusto? Non sono i mezzi che mancano, non sono le cose che mancano, ma nessuno l'ha fatto. No, è vero. Nessuno. Allora, ci sono due mondi, come dicevano, il mondo del nord e il mondo del sud, quello che ci tocca, quell'altro che non ci tocca, però se ci rendiamo conto, tutte queste guerre che prima erano lontane, giusto? Erano quasi da conquistador, lontanissime, adesso ci stanno, sono avvicinate, sono vicine. Non c'è più, la guerra si sta sempre di più avvicinando, ci sono soltanto oasi di pace nel mondo. Non so se avete sentito che 2 giorni fa, dopo l'ultimo, adesso sono quasi all'ordine del giorno, neanche lo dicono più, l'attentato in Egitto, no? Hai sentito? Erano 3 persone, poi ce n'è stato un altro il giorno dopo. Dunque mi pare che alcune compagnie low cost qua a Bruxelles hanno chiesto, perché c'erano alcuni aerei in partenza per alcune destinazioni di turismo, se qualcuno voleva cambiare destinazione. Alcuni l'hanno cambiato. Diciamo che una volta si partì, la cosa assurda è che adesso c'è tanto più modo di andare via. Cioè, se io fossi giovane adesso, sta sempre con una valigia in mano, no? Prendi la valigia con 40 euro, puoi andare. Mio figlio l'altra volta diceva che con 40 euro si andava e tornava in giornata su Torino. Ci sono tantissime altre possibilità che noi non avevamo, giusto? No, assolutamente. Ma invece tutte queste possibilità non le puoi mettere in pratica. Ma dove vado? Lì c'è quello. Dunque, è un assurdo. Più abbiamo possibilità e meno le possiamo usare. Dunque, è tutto un assurdo. Forse eravamo più contenti noi, eravamo più felici noi. Che io mi ricordo che a 20 anni sono andata negli Stati Uniti, quanto me lo sono sognato. All'epoca poi telefonavo ai miei genitori, mio padre, siccome non c'era ancora la diretta, cioè sai, i telefoni, era ancora con un disco registrato da vecchio siciliano, dunque mio padre, vabbè. Dunque, se io ricordo, però avevo sempre la speranza, ma andrò lì, andrò qui. E qui invece uno domanda, dov'è che posso andare? Dov'è che mi permettono di andare? Dunque, se ci guardiamo, noi ci stiamo restringendo, ma ragazzi, poi fra un po' non ci sarà più posto per questo restringimento, l'OSI diventerà sempre più piccola e non sarà più un'OSI, giusto? Beh, speriamo di no. No, però, ecco, come dicevamo prima, noi reagiamo solamente a ciò che ci tocca di persona. Io credo che però sia umano questo. Perché immagino che se andassimo noi in Kenya a chiedere se sono stati toccati dagli attentati di Parigi, ti direbbero di no. Sarebbe la stessa cosa dall'altra parte. Loro no, ma la classe politica sì, perché la classe politica ha fatto tutto lo scarmazzo. Non è detto che dall'altra parte del mondo abbiano la stessa sensazione. Quindi cioè, sono le distanze che comunque creano delle situazioni diverse, delle percezioni, non situazioni, ma delle percezioni diverse. Sì, sicuramente le distanze. Però ritorni un pochettino all'assurdo, perché abbiamo dei mezzi di comunicazione che ci mettono, scusate la ripetizione, in comunicazione con il mondo intero, nell'immediato, giusto? Sì. E però non sappiamo comunicare, non comunichiamo però alla fine. Beh, ma una cosa è la comunicazione, una cosa è la partecipazione a ciò che avviene altrove, perché possiamo anche comunicare, perché abbiamo internet, giornali, tutto quello che vuoi, ma comunque se non conosciamo l'altra parte del mondo, cioè non è la televisione che ce la fa conoscere, non è un giornale che ce la fa conoscere, conosci un'altra parte del mondo se ci vai, se la vivi, e poi neanche tanto da turista. Perché vai da turista e vai a vedere solo le parti belle e mai quelle brutte. Sì. Quindi andare da turista non è bello, ma non è esattamente, non significa conoscere il posto dove vai. Allora a questo punto, se fossimo rimasti all'epoca dei libri, non sarebbe cambiato niente. Ma no, cioè, assolutamente, questo fa parte dell'evoluzione. Questo fa parte dell'evoluzione dell'essere umano. Insomma, io siamo evoluti in una certa maniera ed è giusto che sia così. Insomma, però non ci fustighiamo perché non conosciamo quello che abita dall'altra parte del mondo. È naturale, io lo trovo che sia naturale. Sì, questo sì. Perché dall'altra parte del mondo non conoscono noi, cioè c'è poco da fare. Ho capito, ma se noi rimaniamo su questo ragionamento, allora non ci conosciamo mai. Andiamo a mezza strada e allora conosciamo tutto quello che c'è in mezza strada. No, quello che mi dico e che allora tutta questa tecnologia rimane sempre molto fredda, cioè non ha ma la tecnologia immagini. Rimane fredda, non puoi trasportare quelle che sono le tue sensazioni alla tecnologia. La tecnologia è un aiuto. Ho capito, ma te non ti emozioni di fronte, come uno si può emozionare di fronte a una fotografia, giusto? E ti può provocare delle sensazioni e delle emozioni. Ma le emozioni che ti provoca una fotografia è perché tu o conosci il luogo o hai un ricordo di quello che vedi, altrimenti ti può piacere, può essere bella, brutta o comunque darti un'impressione. Sì, fai un'associazione. Ma non ti dà un'emozione. fai un'associazione, cioè perché vedendo l'immagine, certo, l'associ magari a qualcosa, un pezzetto di quell'immagine ti ricorda, che ne so, la collina, esatto, dove abitavi quando sempre, avevi 3 anni. E comunque qualcosa che tu hai conosciuto. Sì, certo. Non ci è si solo mette... quello che tu vedi, perché il vedere non è sufficiente, perlomeno io la vedo così. Io non lo so, perché io, per esempio, io mi emoziono ogni volta che vedo una fotografia dell'aurora boreale. Non l'ho mai vista, è un mio sogno vedere un'aurora boreale, no? Però mi emoziona, mi dà un senso di non so che cosa. Però immagina che cosa ti farebbe se tu la vedessi sul serio. Ma questo non impedisce che non mi emozioni, che non assolutamente, è bellissimo. Cosa, cioè, che non è soltanto dico, tia, guarda che bello, un domani ci andrò. Cioè, non è che se vedo la fotografia del mio paesello, del paesello di mia mamma, non mi emoziono. Cioè, c'è un altro tipo di emozione, ma mi scaturisce comunque delle emozioni, non è soltanto a livello visivo. Giusto? Giusto. Penso. E allora, su queste emozioni io andrei avanti con i brani musicali. Sì, perché stasera siamo partite a chiacchierare, non so se ci avete fatto caso. Secondo me ci hanno fatto caso i nostri radioascoltatori. Ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete con i colori dell'anima, e nel frattempo Fiorella e Anna Maria penseranno ad un colore adeguato per questa trasmissione. E rieccoci in diretta con i colori dell'anima in questa prima trasmissione del 11 gennaio 2016. Di nuovo auguri di buon anno a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso con la nostra trasmissione, i colori dell'anima, una trasmissione di Radio Alma che, come sapete, va in onda il lunedì in diretta dalle 21 alle 22, e questa sera stiamo cercando così di comunicare, nonostante abbiamo problemi con come si dice casc in italiano? Cuffie. Con le cuffie, ecco, non mi veniva il termine, quindi non riusciamo ad ascoltarci neanche tra di noi, e quindi insomma, se qualche volta ci sentite un po' strane è perché c'è questo problema tecnico. È perché stiamo gesticolando. Infatti, vabbè, ma quello non è che ci vuole molto, no? Per gesticolare. No, stiamo facendo quello il ci viene spontaneo stasera. Allora, Anna Maria. Allora, visto che siamo qui così, abbiamo chiacchierato fino adesso, ora passiamo a un tono un pochino più pacato. Io vi leggo un paio di poesie di Luca Zampetti, che è un autore marchigiano, tanto per cambiare, che in realtà è anche un pittore, e scrive di tanto in tanto qualche spunto, mette sulla carta qualche pensiero. E allora, così, per sdrammatizzare il tono, vi leggo qualcosa. Allora, questa si chiama Come un lupo. Vorrei essere con tutte le persone che amo, con cui mi devo dividere e poi separare. Sarà questo tempo e i suoi giorni, sarà il cuore che le reclama l'affetto. Ho imparato il distacco, la durezza e il silenzio. Dentro tremo e vacillo al pensiero di lei che sola mi aspetta. Sono solo un cane che ha imparato ad essere lupo per avere il rispetto di un branco a cui non appartiene. Io qui leggerei una piccola chiave di tutte le persone che stanno lontani da casa, che vivono un po' lontano e che comunque sentono la mancanza delle cose care e delle persone care. Che da cani solitari devono diventare lupi. Lupi per appartenere a un branco di cui non sono proprio parte. Per cercare di integrarsi, un po' quello che ci succede a noi tutti espatriati, no? Sì, sì. E poi ovviamente c'è una che si chiama A casa. Qui a casa, dopo molto tempo, scopro la novità di quello che prima era mio ogni giorno. Mi rallegro di sapermi ancora solito a questa vita, navigatore che a terra è comunque vissuto. Voglio tornare qui, presto, dove tutto ha un senso ed il tempo riacquista il suo valore, qui dove è nato tutto quello che ho fatto e la sera mi addormentavo soddisfatto. E anche qui di bello nuovo. Questo mi fa pensare a quando andremo in pensione e chissà quale sarà la nostra casa. In pensione. Io ci sono già, ragazzi. Ma la pensione per me è una cosa così lontana, dovrò lavorare fino agli ultimi giorni della mia vita. Non perché sia giovane, ma perché effettivamente è lontana, ma meglio così, non mi lamento che sia lontana, assolutamente. No, mi piace questa poesia. Sai cosa mi fa pensare? Alla paura che tutti quanti abbiamo, in fin dei conti, nel ritornare nei nostri luoghi d'origine e pensare che gli altri ci hanno dimenticato o che hanno cambiato qualche cosa, perché tanto quello lì non viene più, ti cambiano la stanza, ti cambiano questo. E questa... Cioè, noi torniamo abbastanza spesso a casa. Io avevo mia zia che stava negli Stati Uniti e quando sono andata a trovarla alcuni anni fa, dico: zia, ma perché non torni in Italia? Ma se io torno e poi torno, nessuno mi riconosce. Cioè, è la paura che nel frattempo lei sia rimasta attaccata col pensiero a casa, ma a casa si sia staccata, no? Giusto? Dunque... Perché in realtà credo che sia ancora più doloroso tornare e non ritrovarsi più, cioè... E non essere ritrovati. E non essere ritrovati. Se ed essere un estraneo in casa propria è ancora più difficile. Sì. Dunque, e poi c'è anche... Vabbè, sai, quando torniamo a casa, io, vabbè, c'ho mia sorella, mia mamma, e alcuni anni fa sentivo... cioè, mancava la quotidianità, perché loro parlavano di alcune cose. Sì, mi facevano partecipi, però... è come un alfabeto, tu l'hai lasciata la lettera A, poi ritorna la lettera Z, ma nel frattempo c'è stato tutto quanto l'alfabeto e tu ti togli, ed è la quotidianità a cui tu non sei più, come dire, più abituato. Non sei più coinvolto in realtà in tutte queste cose. Ecco, per ritornare a prima del brano, diciamo che tutta questa modernità, la comunicazione, WhatsApp, Facebook, tu Rosanna lascia perdere che non sei manco, perché io c'è proprio non c'entro. Ci hai fatto il grande regalo che ti metti su Facebook? No, ancora no. WhatsAppiamo, WhatsAppiamo. Comunque, con tutte queste cose istantanee, tu sei lì dove con gli altri, immediatamente, dunque, diciamo che è una paura. Cioè, noi facciamo sempre, diciamo sempre, almeno io e i miei figli, amano state sempre in mezzo a questo WhatsApp, a questo Facebook, queste cose qua. Però invece no, è la paura di tutti quanti di essere dimenticati, no? Sì, di essere esclusi. Dimenticati, cioè che non... quello sta lontano. No, io non credo che sia un... Non ci si dimentica, perché comunque come non dimentichi tu i tuoi vecchi amici, le persone a cui hai voluto bene, non sei dimenticato neanche tu a tua volta, però non fai più parte del quotidiano. Sì, quella quotidianità. E quindi sei automaticamente escluso. Sai cosa faccio io? Di tanto in tanto telefono a qualche amica in Italia e mi faccio raccontare tutti i pettegolezzi. Pure io. Però se uno è connesso con Facebook, i pettegolezzi li sa in tempo. No, quelli più succosi non li sa. Oltre a Facebook ci sono anche i gruppi WhatsApp, ma non voi non fate parte di nessun gruppo WhatsApp? A voglia, io sì con te. Io sì. Sono con me. Quello con di Radio Alma. Con i colori dell'anno. Ma non è la stessa cosa. Del liceo, che tra l'altro... quelle che sono venute qua, tra l'altro io sono, che vorrei salutare, perché sono sei, sono tutti quanti oggi ammalati, dunque io faccio un saluto al reparto ospedaletti di Roma, che sono tutti proprio uno più acceccato dell'altro, proprio che peste li colga, come diceva qualcuno, però li saluto, sono tutti proprio scimurrati, tossicchianti e tutto qua, no, in quel gruppo sì, e diciamo che siamo in sette, quelli più attivi, e abbiamo, a volte riusciamo a avere anche 150 messaggi al giorno. Io non riuscirei a seguire onestamente questo ritmo. Diciamo che hai da leggere. Non potrei. Tu metti un problema, sette persone a rispondere, ognuno dice la sua, tutti quanti che rispondono, la moltiplicazione è stata fatta. Senti Fiorella, ma a proposito di parlavamo prima di casa, di pensione, tu non ci volevi parlare di una bella iniziativa? Ah, sì, perché io non sono solamente Fiorella, sono Fiorella della VAI, vi ricordate? Dunque, la VAI è sempre una bella associazione e da un po' di tempo abbiamo cercato ci siamo detti, allora, i soldi scarseggiano, diciamoci la verità, ecco, di donazioni sono sempre poche, però si può aiutare le persone non solamente dal punto di vista materiale, ma si può aiutare dal punto di vista psicologico, supportandole, aiutandole e ascoltandole. E quali sono le fasce, diciamo, più a rischio? Sono le persone anziane, sono quelle di una volta che sono qui da soli, molte volte i figli sono partiti, non ci sono tornati in Italia, loro sono qui. Allora, Abbiamo deciso, una volta al mese ci riuniamo, abbiamo fatto, Little Will ci ha messo a disposizione i loro uffici e niente, che cosa si fa? Niente, si chiacchiera, non è che... diciamo che sono progetti sempre in formazione, no? Work in progress, come si dice in inglese. Non si sa, noi siamo la volta scorsa, il mese di dicembre abbiamo iniziato e io non mi aspettavo niente, cioè tutto è stato creato lì per lì, come un panettone, stiamo sempre a mangiare noi, come un panettone. E sì, uno vede, erano 20 persone di una certa età, cioè la vecchia immigrazione, no? Una cosa bellissima. Noi e lì ho avuto molto da pensare, noi ci facciamo sempre molti problemi per invitare una persona. Hanno detto, no, la prossima volta spostiamo tutto, portiamo un CD e ci mettiamo a ballare. Che meraviglia! Allora, a me la cosa mi commuove, perché ti ricordi, erano quelle persone sono venute qui come migranti, no, bastava una chitarra, si mettevano insomma una... E io penso che noi dobbiamo ricominciare a... rivedere la vita in questa maniera, non farci tante fisime per non dire altre cose, questa è fascia protetta, non si possono dire certe cose, non si possono... E questa, l'entusiasmo, no? Poi è gente che a volte è malata, dice no, ma io ci vengo volentieri, così parliamo. E dico, ma che cosa? Balliamo, come balliamo? E io porto il giradischi, cioè il CD, balliamo. E dico, ma ballate? Dico, ma non c'è posto. Mi fa per lo facciamo il posto. Cioè cerchiamo, rivediamo un pochettino queste persone che hanno affrontato il distacco dalla patria, il vero distacco, il vero, che non è come quello nostro. Questi, c'è gente che non c'è più tornata in Italia perché non c'ha soldi, non c'ha più nessuno, e noi ci torniamo, come dire, e noi torniamo sistematicamente, eppure è quelle persone che ci hanno permesso adesso di essere così come lo siamo. E hanno una forza, una capacità di riciclo, di che sì, facciamo questo, eccetera, eccetera. Come per dire, ma perché ti fai tante fisime in testa? Si può fare. Allora, presso Little Will, martedì dalle 4 alle 6 del pomeriggio, è su Avenue Louise, non mi ricordo il numero, però è 223, però è accanto dove c'è Manhattan Burger, c'è un coso, lì si entra dalle 4 alle 6, chi vuole venire si sta in compagnia. Comunque lo riproporremo anche tutti i mesi, vogliamo fare comunque qualche cosa di fisso, regolare. Il mese di febbraio saremo presso l'Inca, dunque, perché ha anche una grande sala all'Aachen. Il nostro obiettivo è quello di avere una sala, anche loro stanno ingegnando per una sala dove si può andare a ballare anche di pomeriggio, eccetera, eccetera. Qualche cosa uscirà. Io devo dire che ho tutto da imparare da loro. Veramente tutto da imparare, perché tu gli dici così, lo sì, ma se facciamo questo, facciamo quella. È questo. Sicuramente spirito. Abbiamo da imparare il coraggio e la voglia di arrangiarsi. Sì, sì, cosa che noi forse l'abbiamo. Non so, adesso io non so. Sai, quando si invita qualcuno, oddio, devo pulire quello, devo fare quello. Ma ragazzi, un piatto di spaghetti, perché non è quello che si mangia. È stare in compagnia. Chi si sta, giusto? Ecco, e allora, martedì prossimo. Tra l'altro io metterò ogni volta l'annuncio sul sito dei comites, perché adesso i comites hanno un sito dove si può vedere tutto quello che succede su Postella. Eccezionale Paramanta, eccezionale. Fiorella, sei grande, super Fiorella. Quindi insomma, una poesia sul lupo, no? Sì. Il lupo noi che siamo abruzzesi, giusto? Il lupo è un, si dice in bocca al lupo, che noi diciamo sempre crepi il lupo, sto braccio del lupo che crepa sempre. Invece è il più bel augurio che uno può fare, perché il lupo è un animale di protezione, cioè a parte che quando te se magna perché c'ha fame, vabbè, quella è un'altra cosa. Però il lupo ha il senso del branco. Certo. Ha il senso della protezione, se tu ti metti in mano al lupo vale a dire qualcuno che ti proteggerà. Difende, dunque dire in bocca al lupo è il miglior augurio che si può dire, no? Ecco, a me poi io adoro i lupi, non lo so. No, volevo sapere Fiorella, quindi dimmi. Stavi dicendo che l'attività è quando, scusa? Puoi ripetere? Martedì 19, è 19? Sì, 19, dunque martedì prossimo. Quindi martedì della settimana gennaio, prossima dalle 4 alle 6. Dalle 16, dalle 2 alle... A me questa faccenda delle 14, dalle 2 alle 4, scusami. Dalle 14 alle 16. Ma chi vuole venire? Mettiamo che qualcuno sta ascoltando la radio. Beh, lo speriamo, ce lo auguriamo, no? Allora, chi è che può venire? Quel signore che porta il torrone, gli scarpette. No, ma chi può venire, veramente? Persone che hanno voglia di trovare compagnia, fare compagnia, anche queste persone vogliono essere ascoltate, no? Ma devono contattare la VAI prima di venire o possono venire direttamente? Possono anche venire là, mi fanno una bella sorpresa. Altrimenti possono scrivere, non mi dite il numero di telefono perché non me lo ricordo, vai.belgio@gmail.com. Ripeto, vai.belgio@gmail.com. Scrivono qualche cosa e possono venire. Altrimenti vengono lì. E quindi si balla? Non lo so, loro hanno detto noi portiamo la musica, balleremo, dunque uno si porta scarpe comode e vediamo un pochettino, qualche cosa succederà. Intanto ascoltiamo i loro discorsi, quello che loro hanno fatto. L'altra volta hanno tirato fuori delle barzellette simpaticissime. Ah, non lo so, si sta insieme. Giusto per stare in compagnia. L'arte di stare in compagnia. Io non so, te l'ho detto prima, è un work in progress, non so quello che succederà. Riscopriamo il piacere di stare insieme, di ascoltarli. Diciamo che ci sono alcune persone sole. Quello che noi vorremmo, soprattutto io, è che si possano, che quegli incontri possono essere come un ponte, no? Per esempio, che ne posso dire, alcune persone anziane che abitano nello stesso quartiere o vicine, sono da sole, ok, benissimo, domani usciamo insieme. Cioè, che si creino magari dei legami, delle sinergie al di fuori, giusto, di questa occasione. E allora, perché non un giovane che non c'ha niente da fare e venga a prendersi un caffè da noi? Al limite trova anche una persona anziana che può andare a trovare di tanto in tanto, ci può fare una passeggiata, da cui può, come dire, imparare qualche cosa. Il passato qui. Io penso che i giovani di oggi qui non sanno qual è stato il passato. No. Per niente, non sanno... Allora, dunque, queste siamo veramente quasi in fine trasmissione, quindi volevo cercare un po' di fare un riepilogo. È stata una trasmissione di inizio anno, un po' così a schema libero, non ci siamo focalizzate su un argomento, però abbiamo parlato di rifugiati, abbiamo parlato delle attività della VAI, in particolare quelle diciamo per fare compagnia alle persone farsi compagnia alle persone anziane e abbiamo parlato naturalmente delle passate festività, di quanto era bella Bruxelles in questo periodo natalizio, soprattutto per chi c'era, che se l'è goduta. E io vi ho chiesto un colore, voi non me l'avete detto, ma l'ho pensato io: rosa conchiglia, perché rosa il colore dei capelli di Anna Maria. Ecco, allora magari non c'entra niente, ma c'entra perché rosa, il colore dei capelli di Anna Maria. L'avrei detto anch'io, al di là del colore dei miei capelli, perché dovete sapere che effettivamente in questo momento i miei capelli sono rosa. Rosa madreperla, no? Io ho pensato al rosa perché possa essere rosa tutto il 2016. Che bello. Mi sento romantica stasera. Un 2016 femminuccia, allora. No, rosa nel senso che il rosa è il colore della serenità, delle cose che vanno nel migliore dei modi. È un colore tenue, ma è pieno di vita e di gioia. Poi è abbronzato, ti sta bene. E su questo rosa, care Anna Maria e Fiorella, io prendo l'occasione per salutare voi. Grazie Anna Maria, grazie Fiorella. Grazie a te. Grazie a te, a voi, a tutti quanti. E grazie a tutti i radioascoltatori che sono stati collegati con i colori dell'anima. Noi ci troviamo la prossima volta, torneremo ancora a febbraio, ma naturalmente ogni lunedì ci sarà sempre qualcuno dell'equipe dei colori dell'anima. Buona serata, buonanotte e ancora buon anno. E naturalmente abbiamo cominciato con David Bowie e continuiamo con lui anche in chiusura di trasmissione. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.